4. Cominciamo a conoscerci, non vi pare? Mi piace parlare con voi, anche se è un po' strano che io sia qua giù e voi sopra. Vedo la vostra faccia e gli occhi che leggendo si spostano da sinistra a destra, da destra a sinistra se siete arabi, e magari state pensando, cos'è questa magia Baol? Non si può spiegare il Baol e soprattutto non si può spiegare perché non si può spiegare. Però voglio venirvi incontro con un esempio. C'è gente che muore senza saper ballare il valzer. Basterebbero 2 ore della vita e un amico ballerino. Ma che? Niente. Restano ai bordi della pista. Vorrebbero tanto, ma se qualcuno li invita dicono no, grazie, sono stanco. Muoiono senza saper ballare il valzer. E Dio sa quanto gli piacerebbe. Morire senza aver imparato il valzer, e anche il mambo, i salti mortali, l'arpa, la tiptologia e altre cose di gran classe, non è Baol. Avremo modo di riparlarne. Torniamo al bar Apocalipso. È un posto caldo, pulito, illuminato bene. Io sto a cavalcioni su una sedia, come una striptease, e controllo l'entrata. Casomai arrivasse la donna della mia vita, o anche quella della vita di un altro, va bene lo stesso. Vi piacciono i ricordi? A me sì. Vi racconterò tutto dal principio. Lei si chiamava Alice. Alice Hauk e... Scusa, giovanotto? Mi volto. Una vecchia. Che sembra fatta con gli scarti del lifting di un pullman di vecchie americane, con una parrucca fosforescente che, se ha dentro delle pulci, perlomeno sono vestite come Prince. 4 asteroidi di smeraldo alle dita, che ruotando fanno effetto discoteca. Rossetto color mela di Biancaneve. E c'ha la mini. Hai un po' di tempo? Mi dice, e si accosta. Sto parlando con degli amici, dico io. Salve, dice lei, e vi saluta, facendo l'occhiolino. Poi si arrampica sullo sgabello, con uno strano scricchiolio e sussurra. Ti faccio venire in mente niente? Sì, dico io. Un cantiere di lavoro in corso. Spiritoso, dice lei. Vorrei vedere te, a 70 anni. Però, mica male la vecchia. Si pappa un Bacardi e poi 2, poi 3, e manda giù noccioline a galleggiarci sopra. Ma davvero non ti ricordi di me? Mi concentro. Mi sembra risentire il nastro della mia vita che si riavvolge all'indietro. Invece è il fischio della macchina espresso. Chi sei, nonna misteriosa? Sono Mara May. Mara May, grido io. Mara May, grida Galles. Mara May, la regina del porno muto, la prima, l'unica. Come non riconoscerla? Ho visto tutti i suoi film quando avevo 8 anni, dico commosso. Ricordo ancora Rotaie bagnate. E la scena della maionese in Adelchi, e l'orgia sotto il tavolo in barboncini roventi. Era una gran bella ragazza, dice Mara May, e scoppia in lacrime multicolori. Lei era la migliore di tutte, dice Galles emozionato. Una volta le ho anche scritto una lettera di cosa ti farei. Ne ricevo più di 1000 alla settimana, dice Mara May, tra i rivoli. Su, non pianga, dico io. Tutti abbiamo il nostro momento d'oro, e dopo è bello ricordarlo. Se fosse sempre il nostro momento d'oro, non ce ne accorgeremmo neanche. Quando è stato il tuo momento d'oro? Mi chiede Mara. Ci penso un po' su e poi rispondo. Una volta ho vinto un pesce rosso al Luna Park. Segue un rispettoso silenzio. Galles, vedendoci malinconici, ci offre 2 fernet alla banana. Mi tolga una curiosità, dico. Si ricorda quando in La campeggiatrice lei entra nella tenda dei Boy Scout? Come no? C'era Volpe come regista. Nessuno sapeva riprendere il sudore come lui. Grande film. L'ho visto 3 volte. Se ricordo bene, in quella scena lei aveva, scusi il linguaggio, un boy scout che la inzaboriava da dietro, uno che la trifolava nel modo legale, e intanto lei con la mano frullava i peperoncini ai 2 boy scout giovani e simultaneamente gonfiava la gomma al capo boy scout. Esatto, dice Mara May, illuminandosi. Però mi ricordo che c'era un 6° Boy Scout che godeva più di tutti, di fianco al capo Boy Scout. Che cosa e con che cosa gli stava facendo? Quello era mio marito, disse Mara May. Marito? Sì, Alberto. Era geloso, geloso pazzo. Quando mi sposò, sapeva che facevo l'attrice, ma non immaginava il genere. Quando lo seppe, ci rimase male. Era un uomo all'antica. Era geloso così, senza un motivo preciso. Cominciò a seguirmi sul set. Non tollerava che qualcuno mi baciasse. Infatti per i baci usavo sempre la controfigura. In quelle scene, mi ricordo bene, era geloso di 3 Boy Scout. Volle restare sul set a controllare e allora lo vestimmo da Boy Scout e gli dicemmo che doveva fingere di godere. E fingeva? Oh, certo che fingeva. Era un tipo così semplice. Alberto non sapeva cosa fosse la parola perversione. Trascurava il lavoro per stare al mio fianco. Ricordate in quel film l'orgia con i 3 cuochi nel ristorante vegetariano? Beh, ne avevamo girata la metà quando uno dei 2 cuochi si bloccò perché aveva mangiato troppa soia di scena. Forse lo sapete, è un problema idraulico. Il sangue, se va lì, non va là. Ebbene, il cuoco fu in grado di riprendere a recitare solo verso mezzanotte. Io ero stanca morta e c'erano da girare ancora i primi piani. Non primi piani di facce, naturalmente. Allora, sapete cosa fece Alberto? Si sacrificò e mi fece da controfigura. Mi sostituì nei primi piani col cuoco. Doveva proprio essere innamorato, dissi io. Sì, poveretto. È morto? No che non è morto quel bastardo. Ha messo su una casa di produzione di Animal Sex e controlla il 70% del settore equino e il 30% del porno ornitorinco. Porno ornitorinco? Sì, va fortissimo sul mercato australiano. Ma basta parlare del passato. Le dirò perché sono qui. Ho bisogno di un Baol. E lei, Melchiede, Saporogzie Badrosian Baol, è uno dei pochi rimasti. Io non lavoro più. Ma Mago lo è ancora. Ho bisogno dei suoi trucchi. Gli occhi della vecchia brillarono di eccitazione. Ho bisogno dei trucchi della vecchia scuola Way, e anche di più. Cercai di dissimulare il mio nervosismo, ma il bicchiere che mi cadde di mano, le noccioline che sputai e forse soprattutto la mia caduta dalla sedia fecero sì che lei si accorgesse di qualcosa. Non faccio più quei trucchi, anzi, non li ho mai fatti. Sappiamo tutto. Lei ha militato clandestinamente nell'FNC, nell'SDO-FNC e nel CCR-TSNN. È stato espulso dal CCR-TSN per il suo appoggio dall'UCC-PLL-DRD e quando questo si è scisso, lei è confluito nella frazione UCC-LRD, che poi si è divisa in 3 gruppi, in uno dei quali, l'UCC, lei ha militato ai tempi dei 7 splendidi giorni. Fu lei che organizzò l'attacco dei conigli bianchi alla caserma di M. E in seguito a questa azione fu espulso dall'UCC. E con un amico fondò il CC, poi... Lei è della polizia? No, sono molto amica di una persona che ha bisogno di lei. Una persona speciale. Ho conosciuto solo una persona speciale, dissi, stringendo il bicchiere. Un giorno svegliandomi le dissi, Alice, Alice, cos'è cambiato tra noi? E lei mi rispose, ma io non sono Alice. Allora capii. Da quel giorno, sospirai, buttando giù tutta la dose di Fernet, l'unica cosa speciale della mia vita è quando in TV danno un vecchio film di Grapatax. È proprio lui che la vuole, disse la vecchia. Grapatax? Il grande Saverio Antonio de Grapatax? Sì, il più grande comico di tutti i tempi. È morto 6 anni fa. Non è morto, è vivo e la aspetta. Voglio una prova. Quando lei era un giovane mago, una sera Grapatax venne a esibirsi nel suo night. Era il culmine della carriera. Lei invece se la passava male. Non aveva neanche lo smoking per andare in scena. Grapatax le prestò il suo. Mi ha detto che quando lo stirò scapparono via 12 colombe. È vero o no? Non è vero. Lo sapevo. Racconta sempre un sacco di balle, quel vecchio rincoglionito. Comunque lei verrà lo stesso. Chi glielo dice? È qualcosa che ha a che fare col suo segreto. Presi l'impermeabile e uscimmo. Ci urlarono dietro. L'impermeabile non era mio.